известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Signor Presidente, lei ed io abbiamo piantato un albero d'olivo alla sua residenza nel giorno in cui sono arrivato in Israele. L'albero d'olivo, come sa, è un'immagine usata da San Paolo per descrivere le relazioni assai vicine tra i cristiani e gli ebrei. Se n'è andato con queste parole, con parole di amicizia che chiudono il cerchio della sua visita in Terra Santa. Papa Benedetto XVI è già decollato dall'aeroporto di Tel Aviv alle 14.25 ora locale, 13.25 ora italiana, è atteso a Ciampino nel corso della nostra trasmissione. Alle 16.50 deve atterrare il suo aereo che lo riporta a Roma, ma il momento del congedo è stato probabilmente il momento di maggiore reciprocità, empatia e in un certo senso anche il momento in cui, dopo una lunga visita fatta anche di alti e bassi, di delusioni, disillusioni, pressioni, offerte, insomma nella tradizione di un dialogo che non è mai stato semplice, non è mai stato piano come quello fra la Chiesa romana e gli ebrei, e si è trovato un momento di sintesi, di chiarezza, sia nelle parole pronunciate da Shimon Peres che nella risposta, nella lunga, organica, organizzata e interessante risposta offerta dal Pontefice, allorché ha detto: sono venuto a visitare questo paese come un amico degli israeliani, così come sono un amico dei palestinesi. Gli amici amano passare il tempo gli uni in compagnia degli altri, vengono profondamente rattristati dal vedere le sofferenze degli altri. Nessun amico degli israeliani e dei palestinesi può evitare di addolorarsi per le continue tensioni tra i due popoli, nessun amico può evitare di piangere davanti alla sofferenza e alla perdita di vite umane che entrambi i popoli hanno patito negli ultimi 6 decenni. Era presente sul palco, sistemato sulla pista dell'aeroporto, anche Benjamin Netanyahu, che ieri peraltro ha avuto un suo personale incontro, un suo faccia a faccia, seppure breve, con Ratzinger, e il momento, come dicevo, è stato probabilmente il più rilassato, il più ravvicinato. Peres ha detto: oggi i dirigenti politici e spirituali devono affrontare una sfida profonda, come separare la religione dal terrorismo. Parole interessanti queste, come impedire ai terroristi di prendere in ostaggio la coscienza religiosa travestendo un atto di terrorismo sotto le mentite spoglie di una missione religiosa. Un'architettura, ripeto, del pensiero, quella presentata da Peres, di grande interesse. La loro visione deformata di Dio è ciò che permette, anzi incoraggia, la morte, il terrore e la violenza. Il presidente israeliano ha ringraziato Benedetto XVI l'aver detto che l'olocausto non deve essere dimenticato o negato, perché le parole poi pronunciate in chiusura da Benedetto XVI sono state ancora le più nette, le più decise, le più esplicite nei confronti dell'olocausto in questo momento di distacco, forse a dare proprio solennità e come dire, chiarezza a questo momentaneo separazione. L'aver detto che l'olocausto non deve essere dimenticato o negato, ha detto ancora Shimon Peres, e che l'antisemitismo sotto qualsiasi forma deve essere combattuto intensamente, ha toccato i nostri cuori e le nostre anime. Peres ha infine assicurato come la sincera aspirazione alla pace con i paesi vicini e nemici sia condivisa da tutti gli israeliani. Avremo modo nei prossimi giorni poi di provare a stilare un bilancio di questo viaggio e delle sue prospettive, ormai chiaramente politiche, espresse chiaramente in un senso politico anche dalle parole di commiato o dette da Benedetto XVI. A margine c'è qualche numero che vogliamo darvi: la maggioranza dei cittadini israeliani auspica che Netanyahu si dica favorevole alla creazione di uno Stato palestinese in occasione del suo incontro previsto il 18 maggio, quindi lunedì, a Washington con Barack Obama, un incontro di grandissima importanza importanza che seguiremo in modo molto ravvicinato. E quanto emerge dal sondaggio pubblicato dal quotidiano Haaretz, il 57% degli israeliani ritiene che Netanyahu debba sostenere il principio dei due stati per due popoli, il 35% invece è di parere contrario, manifesta la propria opposizione alla creazione di uno stato palestinese sovrano. Vediamo se Netanyahu terrà conto di questi numeri, di questo invito, di questa spinta ad agire secondo una certa strategia, allorché vedrà Barack Obama, che sembra un altro degli architetti indispensabili, come potrebbe esserlo anche Benedetto XVI, alla creazione di una pace duratura e di una situazione nei territori palestinesi definitivamente soddisfacente per tutte le parti. Nel frattempo è rinata, usiamo queste parole, una emergenza su cui il nostro programma ha cercato di essere sollecito, attento a suo tempo, sulla prima pagina di un quotidiano italiano c'è scritto: tanto l'oppressione birmana non smuove la piazza dei diritti umani, perché è tornata in carcere Aung San Suu Kyi. E la notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo, c'è stata una mobilitazione da parte di tanti personaggi ufficiali, di fatto però la piazza dei diritti umani, citata da questo giornale, che fatica a sintonizzarsi con queste realtà, vedremo come reagirà nelle prossime ore, ma noi intanto abbiamo chiamato Luca Vinciguerra, il corrispondente dalla Cina del Sole 24 Ore, che sappiamo peraltro aver pescato niente meno che a piazza Tiananmen, per avere anche qualche particolare in più di questo strano arresto, al di là della logica che lo ordina probabilmente mantenere sotto strettissimo controllo allorché stavano scadendo i tempi, anzi incarcerare direttamente questo personaggio di formidabile popolarità, però la storia che lo circonda è una storia stranissima, di un signore, di un americano che a nuoto andava verso la sua villa. Ma chiediamone di più a Luca, che ci ascolta in diretta. Buonasera Luca. Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Che cosa ne sai? È veramente nebulosa la storia. No, sì, è estremamente nebulosa, e devo dirti che io appunto dalla Cina, forse il posto meno indicato certo. Da dove avere informazioni di questo tipo. Sui giornali cinesi la notizia è stata passata quasi sotto silenzio, perché appunto la Cina è uno dei principali sostenitori del regime birmano, e ovviamente non, secondo la politica, la classica politica di non ingerenza di Pechino, se ne guarda bene di farsi gli affari di uno Stato sovrano, soprattutto in una situazione come questa, dove dicevi tu si tratta di una dinamica molto nebulosa. Anch'io l'ho preso dai giornali, l'ho preso dai giornali stranieri, ecco. I cinesi su questo sono stati assolutamente zitti. Ma Luca, poi non pensi che siano un po' delle sceneggiature tutte un po' scritte, no? Naturalmente un arresto di questo genere fa gridare immediatamente a una recrudescenza antidemocratica, fa muovere i soliti noti, poi probabilmente si troverà un aggiustamento. Fa ancora così tanta paura, a tuo parere, un personaggio come Aung San Suu Kyi? Sì, fa paura perché i regimi, soprattutto quando si trovano in uno stato di debolezza, hanno l'ossessione di essere rovesciati, che devo dire che è un'ossessione del tutto comprensibile, no? Dal punto di vista del tiranno. Pensiamo, ecco, guarda, salto se vuoi di palo in frasca, ma proprio perché mi trovo in piazza Tiananmen, le memorie che sono state pubblicate, di cui si è avuto notizia ieri, che verranno pubblicate entro la fine di questo mese, di Zhao Ziyang, l'ex segretario del Partito Comunista, che fu silurato da Deng Xiaoping esattamente 20 anni fa, quando era il 20 maggio del 1989, 10 giorni prima del massacro di piazza Tiananmen. Ciò che spinse, secondo proprio le memorie pubblicate ieri di Zhao Ziyang, ciò che spinse la leadership comunista nell'89 al bagno di sangue di Tiananmen fu proprio la paura della destabilizzazione. Ed era una paura, secondo quanto diceva lo stesso Zhao Ziyang, che era, ricordiamo, il segretario del Partito Cinese, era una paura assolutamente sovrastimata. Fu una sovrareazione rispetto al pericolo reale che quegli studenti in piazza Tiananmen, che avevano occupato 2 mesi, ponevano alla stabilità politica cinese. Ecco, questo, ripeto, rispetto sempre prendendo le parole di un autorevole testimone di quei giorni. Quindi, ecco, probabilmente la regime birmano oggi è assai più debole di quanto non fosse il Partito Comunista Cinese in Cina 20 anni fa. Sicuramente parliamo di persone meno capaci, di uno stato molto più debole, il paragone non regge, però direi, ecco, l'aspetto psicologico, il filo rosso che lega un po' tutte le dittature è questo. Pensiamo alla Corea del Nord, un paese disperato, una dittatura disperata che continua a giocare al tavolo del nucleare come se fosse il dottore Stranamore, insomma. Certo. pur di salvare la loro posizione, i tiranni rincorrono anche i fantasmi. Vedremo anche le modalità della mobilitazione internazionale. Già di recente, in occasione di altre crisi in Birmania, abbiamo visto questo up and down, su e giù, apparire e scomparire anche sulle pagine dei giornali e delle notizie. Effettivamente l'opinione pubblica fatica, internazionale fatica a sintonizzarsi su queste realtà. Però tu in questo momento appunto sei a Tiananmen, in prossimità di anniversari formidabili, anche se appunto di ben altro tipo di regime si parla, e se i giornali cinesi tengono, come dire, basso il livello, il flusso di informazioni riguardo alla Birmania, quanto si parla invece di Tiananmen, ovvero dei problemi, dei vecchi problemi di casa, e come se ne parla, Luca? No, se ne parla zero finora, e credo che se ne parlerà zero anche nei prossimi giorni. Qui parliamo di un grande argomento tabù per la Cina, questo è una sorta di peccato originario, insomma. Se non ci fosse stata Tiananmen, era il 1989, in Unione Sovietica c'era Gorbaciov, c'era la perestroica, sappiamo tutti come andò a finire l'Unione Sovietica, come andò a finire nei paesi d'oltre cartina, vennero spazzati via, no, dalle riforme che appunto il Gorbaciov concesse all'Unione Sovietica e indirettamente ai paesi del patto di Varsavia. Ecco, quindi probabilmente la storia sarebbe andata in modo diverso. Quindi questo è un tabù di cui appunto la leadership cinese non vuole assolutamente parlare e con la quale non si vuole confrontare. Probabilmente i leader che oggi sono al potere, all'epoca fu anche per una questione, se vogliamo, anagrafica, all'epoca avevano 40 anni, poco più di 40 anni, probabilmente erano tutti contrari a quella scelta che appunto si rivelò poi, insomma, portò alla carneficina del 4 giugno 1989. Ciò nonostante, traggo la loro legittimità deriva da lì, dal fatto che il leader del Partito Comunista, il presidente della Cina, che all'epoca era Deng Xiaoping, decise in questa direzione, seguito dal premier Li Peng, silurando un segretario che era contrario, si arrivò a quella soluzione. E questo assicurò poi la Cina 20 anni di stabilità con tutto quello che ne è conseguito, insomma. Quindi sicuramente non se ne parlerà. Ecco, quindi quello che ci sta dicendo è che da parte loro non si farà finta di niente, non so come dire. Assolutamente. O probabilmente ci sarà qualche articolo retorico di questi, insomma, che non diranno di sostanza nulla, ecco. In questi giorni, se si vuole essere, lo consiglio magari ai nostri ascoltatori, che magari fossero particolarmente interessati al tema, la lettura da fare è sicuramente il South China Morning Post, che è il più importante quotidiano di Hong Kong, un quotidiano totalmente libero, che sta già cominciando a fare a raccontare molte storie su piazza Tiananmen, sta dando opinioni da angolature diverse, ha pubblicato proprio oggi diversi servizi su questo memoriale di Zhao Ziyang. Certo. Quindi ecco, consiglio vivamente la lettura, anche per un appassionato può anche valere la pena di scrivere, di pagare quei 30-40 euro di per consultare il giornale di abbonamento, sì, perché quello sicuramente, se aspettiamo che ce la raccontino i cinesi, è troppo presto, probabilmente ci sarà un giorno in cui dovranno fare i conti col fantasma di Tiananmen, però non è ancora troppo presto, appunto. Grazie a Luca Vinciguerra, il consiglio, quindi South China Morning Post, su internet ci sono le notizie, bisogna poi pagare qualche soldo per leggere gli articoli nella loro interezza. E quanto alle notizie da Birmania, cercheremo di fare del nostro meglio per tenervi informati. Stay for a walk in the park. Nice day for a drive through the city. This world is a warm, sunny park. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- this world as if no depart. Si chiama Walk in the Park, una camminata nel parco, questo brano, un vero prototipo di musica indipendente americana. La band è O No O Mai, tanto se qualcuno di voi se lo può chiedere, O No, abbiamo detto anche noi a Facebook, dopo che non consegniamo le nostre mail, quindi abbiamo deciso di organizzarci in modo così, un po' più sciolto. In fondo arriva l'estate, di tanto in tanto lanceremo dei temi e poi li lasceremo così sciogliere su qualche giorno in più, in modo anche di non mettere troppa pressione con le migliaia di partecipanti al nostro sito che si chiama Express Yourself. E quindi cosa, che menù abbiamo? E quindi facciamo una specie di resumé della settimana, anche se bisogna dire che quando abbiamo annunciato che avremmo un po' centellinato le proposte su Facebook, molti stanno già piangendo. Lo so. C'è appena arrivata una mail di un ascoltatore che dice: adesso ve li faccio io gli argomenti, così tra poco non farete più nulla. Ma sono le mail. Quindi hanno mancanza, insomma, del Facebook quotidiano. Comunque recuperiamo per esempio quello di ieri sui muri visibili e invisibili, no? Il riferimento alle denunce gravi del Papa di Benedetto XVI sul muro eretto dagli israeliani. Insomma, ha detto che i muri in realtà non facilitano certo il dialogo, ma lo complicano. Abbiamo anche chiesto una connessione con vicende legate ai respingimenti delle navi, quindi a quei muri virtuali che a volte vengono eretti anche nel mare che divide l'Italia dalla Libia. Abbiamo recuperato un po' di messaggi arrivati proprio dopo la trasmissione di ieri. E allora c'è Franco che dice: la cultura occidentale ha tra i suoi capisaldi il diritto alla vita e il diritto di proprietà. Battiamoci per un mondo che rispetti questi principi e i muri non saranno più necessari. Poi c'è un Ettore amletico: i muri vi è un tempo per abbatterli e un tempo per erigerli. Io la penso così. Questa è una posizione. Ce n'è un altro ancora più amletico. Nikita: un muro può essere giusto o sbagliato, tutto dipende da che parte lo si guarda. Possiamo dire anche che un muro può essere alto o basso. Certo, un po' tutto il contrario di tutto. Direi invece fortemente negativo l'ultimo giudizio che vi segnalo, quello di Dario: un muro non è nient'altro che un muro, non si può vedere oltre un muro. La presenza di un muro, insiste su questa parola che evidentemente lo colpisce molto, a mio vedere è sinonimo di incapacità di confronto, quindi totalmente contro il muro israeliano. Poi abbiamo parlato anche di Bernie Madoff, il trader che ha truffato un bel pezzo di America e non solo. Ieri abbiamo letto con una certa preoccupazione un articolo del Corriere della Sera dove si stendeva il ritratto del gaglioffo, ma in fondo con un suo fascinaccio, e siamo rimasti francamente basiti. C'era anche riferimento alla segretaria ogni tanto palpeggiata. La segretaria palpeggiata, insomma, il film in vista, Hollywood, a chi lo faranno fare? Michael Douglas, chi sarà? E vi abbiamo detto: ma vi convince, insomma, questa spettacolarizzazione a tutti i costi anche della cattiveria, no? L'importante è essere grossi, no? Poi se la grossezza di luce in cattiveria, che vuoi fare? È uscito così. Tanti i vostri commenti, me ne leggo solo un paio. Quello di Adlai che dice: da che se ne parla? Non mi sembra sia stata cambiata nessuna regola del gioco, più che mai comanda e lo scommetti e vinci. E Mukeba, il nostro amico, scrive: Madoff mi ricorda il Gordon Gekko di Wall Street. Ecco. Lo sai che lo stanno rifacendo? Fanno pronto il Wall Street, sì. Sgradevole e senza morale, fa riflettere che di quel film ci si ricordi solo del cattivo Douglas e non di Bud Fox, il buono e sognatore interpretato da Charlie Sheen. Avevano già capito tutto. Beh, quelli sono quelli come, no, Lehman Brothers, che era la buona delle società di Wall Street, che si sono andati con la cassettina con dentro il cactus, le penne, e hanno cambiato mestiere. Pare che da quelle parti le cose vadano così. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Tante cose girano attorno alla Casa Bianca di questi ultimi due giorni e hanno dei lunghi tentacoli che arrivano a toccare tutto il mondo, in particolare le aree di crisi, ma sicuramente la politica estera, dopo il grande scrollone iniziale, no, dell'amministrazione Obama, dedicato al tentativo di sistemare le cose, poi si è cominciato a guardare fuori dalla finestra verso il mondo che gira e verso ad esempio le code, io direi le code velenose, avvelenate della precedente amministrazione, soprattutto dal punto di vista di Obama e dei suoi, ovvero l'eredità che è caduta loro in grembo, un'eredità che si potrebbe chiamare Guantanamo, con tutto ciò che ruota attorno a questo nome, a questa sigla, a questo carcere speciale. Tutto ciò che ruota attorno alla parola torture, tutto ciò che ruota attorno a un nome che ormai è diventato, non dico un insulto, ma quasi, ovvero quello di Cheney, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America nella gestione di George W. Bush. C'è, come dire, un avanti e indietro tra un passato recentissimo, il presente e un futuro in cui le cose si intrecciano e spesso cambiano anche di segno. Guardate per esempio quello che sta capitando sulla testa a Nancy Pelosi dal momento in cui anche il suo nome si è intrecciato alla questione delle torture. È di poco fa la notizia che Obama riaprirà i tribunali militari con nuove procedure, ma insomma ci siamo alle commissioni militari create da George W. Bush, e c'è questa mina vagante di queste foto che con una certa sorpresa dell'informazione americana Obama ha deciso di mantenere segretate. Facciamo un po' il punto su tutti questi scenari che poi sembrano puntare tutti insieme verso questo 4 giugno, quando Obama parlerà all'Islam, parlerà in una situazione, spera, la più favorevole, rilassata, amichevole possibile, al punto da lavorare già fin d'ora per creare queste condizioni eccellenti. Abbiamo in diretta Mario Platero da New York, il corrispondente del Sole 24 ore, nonché amico della nostra trasmissione, che salutiamo. Ciao Mario. Eccoci, buongiorno. Allora, quali di questi tanti temi sono sulle prime pagine in America in queste ore? Questa storia delle torture, le insinuazioni di Cheney, Guantanamo, dici? Ma guarda, come hai detto, abbiamo una gran quantità di cose tentacolari, così, che si estendono. La cosa più calda in questo momento, direi, è l'attesa per l'annuncio che a momenti dovrebbe fare Barack Obama sulla sua decisione di mantenere il sistema delle commissioni militari che era stato instaurato da George W. Bush per perseguire i sospetti di terrorismo, un po' una coda, se vuoi, di Guantanamo, o comunque il contrappunto giuridico di quella che era la detenzione a Guantanamo Bay, cosa che ha sorpreso l'ala liberale, certo, liberale inteso nel senso di sinistra del Partito Democratico, che ha avuto e sta preparando proteste, reazioni dure a questo annuncio scontato del Presidente Obama. Come tu dicevi, sta capitando che, come capitò già in passato, il pragmatismo di questa Casa Bianca prevale sull'idealismo, idealismo sulle cui ali Barack Obama ha costruito la sua straordinaria campagna elettorale e poi la sua vittoria. Ma governare è diverso dal fare campagna, lo dicevamo durante la campagna, lo dicevamo prima del giuramento, e ci troviamo a dirlo di nuovo oggi. E dunque Obama ha scelto, credo, se mi consenti, perché è stato in qualche modo costretto a scegliere, nel senso che, e questo è un fatto che direi viene spesso, troppo spesso, sottovalutato in genere dalla stampa internazionale, ma George W. Bush avrebbe voluto chiudere Guantanamo, avrebbe voluto liquidare i tribunali militari. Ricordo una conferenza stampa che fece ai margini di un suo viaggio in Europa nel secondo mandato, questo secondo mandato che cambiò radicalmente l'impostazione di politica estera, no? Con maggiore apertura, maggior dialogo, tentativo. Ebbene, lui disse quasi disperato, dicevo, io ho spiegato ai miei colleghi, io questa guanda la vorrei chiudere domani mattina, però non posso, non è possibile, perché non si sapeva queste persone dove metterle, perché i paesi che dovevano recuperare questi prigionieri non li volevano o comunque minacciavano poi di metterli in prigione o comunque di torturarli, peggio ancora. Insomma, c'erano una serie di complicazioni, e ce ne sono ancora di più, che non arrivano ovviamente poi diluite in un contesto di spiegazione generica di quella che è la situazione. Ecco, Barack Obama si sta rendendo conto di questo nel momento in cui i dossier gli arrivano in mano, nel momento in cui deve prendere delle decisioni informate, e l'informazione, credimi, è straordinariamente più dettagliata di quella che noi stessi possiamo trasmettere in un articolo di giornale o in una trasmissione come questa che facciamo adesso, ebbene arriva poi a decidere cose che ci sorprendono e che poi in realtà non dovrebbero sorprendere. Così la CIA, per esempio, non voleva dare le notizie che poi ha dato, e le ha date sulla spinta proprio dell'ala sinistra, rendendosi conto poi di aver fatto un piccolo pasticcio. Allora a quel punto ha fatto marcia indietro sulle famose fotografie, dicendo che appunto queste avrebbero messo in pericolo la sicurezza delle forze armate, le forze armate si sarebbero quasi sentite tradite per questioni politiche da loro commander in chief, ricordiamolo, Barack Obama il commander in chief delle forze armate, e così fino a questa decisione sui tribunali che resteranno aperti, con la promessa di Barack Obama di chiedere al Congresso maggiore tutela per gli imputati, poterli consentire di esercitare certe forme di difesa, ma comunque la sostanza, la forma resterà la stessa. Ecco Mario, ma in questo scenario che hai ora disegnato c'è però la figura dell'irriducibile, no? L'irriducibile che non chiede scusa, anzi dice non avete capito nulla, dovreste ringraziarci invece che minacciare di incriminarci, e questo è Dick Cheney. Che sta facendo? Mi sembra di capire, però su questo vorrei una tua informazione, un percorso tutto suo, e quello che vorrei sapere da te è quanto l'America dà ascolto a quest'uomo che non smette di dire abbiamo fatto certe cose non perché siamo cattivi dentro ma perché credevamo fossero giuste, e state pur certi che in questo momento non sapete quanto sono state utili queste cose, torture incluse. Guarda, è molto interessante quello che tu dici, perché Dick Cheney è come in Star Wars, è il Darth Vader. Mi ricordo che ci fu un passaggio proprio con Lucas in uno dei parti inaugurali, perché la columnist del New York Times, Maureen Dowd, aveva paragonato George W. Bush a questo dio dell'oscurità, no? Ebbene, lui disse no, in realtà George W. Bush è l'innocente, il vero cattivo, e quindi il personaggio mitologico da lui creato è Dick Cheney. E quindi questa storia poi è stata ripresa recentemente proprio da un altro articolo proprio di Maureen Dowd, sempre sul New York Times, in cui diceva beh, avevo ragione, però avevo ragione a dire che Dick Cheney eccetera. Ecco, Dick Cheney è emerso nell'immaginario collettivo come il vero cattivo della situazione. George W. Bush era considerato un po' lo stupidotto, anche se secondo me poi non lo era affatto, ma comunque nella percezione generale lo era, e Dick Cheney era la vera mente che esercitava, manovrava dietro le quinte la cattiveria, la vena più brutta, più cattiva, più pericolosa dell'esercizio del potere. Era un mole, così, una talpa della vecchia amministrazione Nixon-Ford, che in qualche modo era riuscita a ritornare all'esecutivo e a esercitare una piccola vendetta anche per quello che successe poi a cavallo del Watergate e così via. Ricordiamolo che Cheney lavorò con Nixon e poi con Ford. Ecco, in questo contesto George W. Bush è sparito. W. Bush interpreta fino in fondo questo suo ruolo, in cui crede così di dovere pubblico, presidente degli Stati Uniti, che svolge la sua missione, ma che poi si ritira e non dice una parola contro il suo successore. Però, lascia Cheney a fare la guardia al bidone, come si dicevano. Più che lasciarlo, i rapporti fra i due non sono stati più buoni negli ultimi tempi. Io credo che questa sia veramente una difesa personale e totalmente autonoma di Dick Cheney. Non credo che i due si consultino, anzi escludo che i due possano parlare di questo. E quindi è Dick Cheney che, trovandosi nella posizione del cattivo, ha deciso che difende fino in fondo quello che ha fatto, spiega fino in fondo, come si dice, for the record, perché le sue dichiarazioni, le sue posizioni restino poi per la storia, certo. E quindi interviene dappertutto. Era pochi giorni fa qui a New York a un dibattito, questo IQ, Square Q debate che fanno, molto interessante, in cui c'è una mozione, poi c'è un gruppo di persone che si schiera contro questa mozione, un gruppo di persone che si schiera a favore, e lì si parlava di Iran e lui era intervenuto, in realtà era fra il pubblico, la figlia era invece sul palco e quindi in qualche modo era andato a dargli un appoggio, però è molto presente, parlando di Iran ovviamente la figlia poi ripeteva un po' quelle che erano le sue posizioni, e dunque lo fa secondo me proprio per cercare di risvegliare quello spirito nel Partito Repubblicano che è più decisionista e meno buonista e che in qualche modo viene così soppresso da questa straordinaria popolarità di Obama e del liberalismo democratico che torna in auge, ma dall'altra proprio per difendere se stesso. Grazie a Mario Platero. C'è anche tra l'altro un articolo sul Washington Post in cui Cohen, un giornalista di ottima qualità del quotidiano della capitale, come dire, sempre con le dovute misure, ma da ascolto, da spazio ai pareri espressi dal vicepresidente. Ripetiamo, è una storia che guarda poi verso una scadenza vicina, quella del grande discorso che probabilmente si terrà al Cairo di Barack Obama. Queste sono in un certo senso le grandi manovre preparatorie. Sin, an army towel covering my belly. Some of us weep, some of us howl, knees turn to jelly. But next, I was just a child, 100 like me. I followed a naked body, a naked body followed me. Next. I was just a child when my innocence was lost in a mobile army hoon house, a gift of the army, free of course. Next, next, next. Me, I really would have liked a little bit of tenderness, maybe a word, maybe a smile, maybe some happiness, but next. Oh, it was not so tragic and heaven did not fall, but how much at the time I hated being there at all. Next, next. I still recall the brothel trucks, the flying flags, the queer lieutenant slapped our asses thinking we were fags. Of gonorrhea, it is his ugly voice that I forever fear. Next, next, a voice that stinks of whiskey, corpses, and of mud. The voice of nations, the thick voice of blood. 360 gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Mi sa che i punti sensibili del pianeta sono pochi. Oggi saranno pochi perché siamo in chiusura. In compenso, so che ti è piaciuta la notizia su Michael Douglas. Che tu ti sei informato? Sì, perché mentre tu e Mario chiacchieravate amabilmente di cose interessantissime, noi ci siamo messi in moto alle tue spalle in regia. Mica siete carini. Esatto, abbiamo visto che effettivamente è dato in uscita nel 2011, quindi manca ancora un po' di tempo. 2011. Il sequel, il 2 di Wall Street, si chiamerà Money Never Sleeps. Il denaro non dorme mai. Ed è confermata la presenza di Michael Douglas nei panni di Gordon Jeggo, che torna fuori dal carcere e ricomincia una nuova vita da finanziere. Quindi insomma, ci deve essere ancora il capitalismo americano. Esatto, con scenari aggiornati. Certo, Lehman Brothers e tutto per il quello resto. Quello 2011, aspetta. Quindi incide ancora sullo stesso punto il nostro Oliver Stone. So che è un'altra notizia, veloce, c'è tempo a darla. Notizia curiosa dalla Cina, visto che è venerdì, no, di solito si va più leggeri. Allora, riguarda una ragazza di 23 anni, che all'anagrafe risulta chiamarsi Shi, S-H-I di cognome, e vive nel Fujian. Dunque, questa ragazza 23 anni, alta 1,60 m per 75 kg, quindi non esattamente un fuscello. Ragazza robusta. È robusta, però contenta del suo fisico, però ad un certo punto si accorge che non trova più pretendenti e quindi decide di dimagrire per finalmente avere un fidanzato. Mm-hmm. Il padre, che è un ricco manager della regione, quindi non ha problemi di soldi, si arrabbia e dice: no, mi piace così, grassa come sei, e mette una dote del tutto particolare, più o meno 2.000 euro a chilo, che fanno circa 150.000 euro per chi si impallerà la ragazza. Quindi può anche valere la pena, 150.000 euro per la ragazza di questi tempi, poi insomma 160 centimetri per 75 kg, va bene. Siete avvisati da Jefferson 2, l'arte della svolta, che è in bocca anche lui. Questa è una svolta vera, in suo, che è l'arte della svolta, quello dicevo. Stefano Pistolini, Milano Enrico, Valerio Rocchetti e Valeria Bernarda a Milano, Roma Milano per la parte tecnica. Jefferson 2 radio24.it è la mail, le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Iscrivetevi sempre numerosi, ascoltateci se volete in replica a mezzanotte, e il podcast è sul sito della radio. Ci sentiamo lunedì sempre attorno alle 4 qui su Radio 24. Ciao.